Ci sono tre valori che l'umanità e la sapienza antropologica hanno sempre riconosciuto come valori irrinunciabili. Il primo è la verità. Il secondo è il bene. Il terzo è la bellezza. La verità è la corrispondenza con ciò che è reale. Sempre di più. E ciò che è reale nella vita, nella logica della vita, sono delle relazioni armoniche. Questo è ciò che è essenziale. Per questo Gesù ha detto: io sono la verità, sono la via, sono la vita. La verità è la logica della vita. E la verità non è l'esattezza delle scienze. La verità è l'adesione al vero, che è l'adesione alle relazioni armoniche. Il vero bene è sempre collegato alla giustizia, perché il bene mio che fa il male tuo non è bene. Bene e giustizia sono la diade inseparabile. Non è bene ciò che non è giusto, e non è giusto ciò che non è bene. Platone, che è l'inventore della teologia, ha coniato persino il termine, dice che Dio è bene e giustizia, cioè bene vero. Ha parlato di verità e di bene. La bellezza. La bellezza vuol dire le proporzioni, la relazione armonica pienamente dispiegata. Quindi è il frutto della connessione tra la verità e il bene. Ciò che è vero e che è anche bene produce bellezza. Allora, cos'è che unisce tutte questi tre valori? L'amore. E l'amore fondamentalmente è unità, il viaggio verso l'unità, verso l'uno. In questo modo riscopriamo i quattro trascendentali della filosofia medievale. Verità, bene, unità, bellezza. Questo, quando la filosofia era ancora viva, era chiaro per tutti. Essendo in un'epoca in cui questi valori sono frantumati, noi come individui, l'anima individuale rispecchia l'anima collettiva. Un'anima collettiva malata ci fa malare tutti. E noi malati rinforziamo la malattia. Il problema della scissione tra l'appartenenza, l'amore e la verità di chi sono io. Allora da lì il processo che va verso l'uno genera infinita bellezza, il resto è bruttezza. Noi possiamo curarci nel momento in cui stiamo curando l'anima collettiva e viceversa. Questa è la novità che nasce dopo il disastro del Novecento, no? Che è stato il secolo delle guerre mondiali. A proposito dei bambini, ripeto sempre la frase: non entrerete, cioè non entrate nel regno dei cieli se non diventate come bambini, cioè se non recuperate quell'unità lì. Del bambino c'è sia il senso della giustizia che dell'appartenenza, della giustizia, della verità, ciò che c'è. Le parole di Gesù sono molto potenti e molto sintetiche. Io sono la verità, io sono la via, io sono la vita, la verità, la via. Non entrerete nel regno dei cieli se non diventate come bambini, dove queste cose sono fuse. Perché Gramsci dice che bisogna diventare partigiani? Come si conciliano le due cose? Quindi quando parliamo di parteggiare, non significa di parteggiare per questo, questo, questo, che comunque genera conflitto. Si tratta di parteggiare per una cosa che non è una parte. Vai nel luogo dove sei già unito. Scelgo la verità, il bene, la giustizia, tutto insieme. Tra virgolette, parteggiare, stare in quello dove c'è la verità, il bene, la giustizia, la bellezza e l'unità, contro l'indifferenza che produce poi il fatalismo e non c'è niente da fare, di qua e di là, le solite lagne che ascoltiamo.